Non vivo nel fast, non vesto con le grandi marche, faccio solo rap e mi accontento delle pacche. Vedo persone ricche che hanno crisi familiari, che non pensano mai cari ma i denari nelle sacche, e cognizione la fanno per strategia, mentre quelli come noi sono ridotti alla pazzia in un'eterna emorragia. Neanche più la polizia ci protegge con la legge, vorrei solo pulizia. E chi guadagna del voto alla santa anche, ho tipi mafiosi collusi come amici che di soldi sono ingordi più di un goloso buffet. Se gli parli della strada non sanno neanche cos'è. Prendono, vendono, spendono molti milioni, sono giovani anziani come il ministro Meloni, con voti finti, fasulli, arroganti come debulli, organizzano solo falli prendendo le decisioni con ricchi tristi imperialisti, proprio come Bush. Io non busso nella villa di lusso, non ho la Porsche, di tutta l'erba qui non si può fare un fascio. La prima me la fumo, ma il secondo glielo lascio, in fondo poco e quel poco lo tengo stretto, giusto qualche sogno che è stipato nel cassetto. Ho ancora una famiglia che mi ospita sotto un tetto, e certo è poco ma quel poco lo rispetto, e so che poco però me lo tengo stretto, anche se cammino solo per strada senza un contratto. Mi sveglio la mattina e posso stare sull'asfalto, e certo è poco ma quel poco io l'ho scelto. Molto poco mi appoggio a qualche persona, mi resta il fuoco, ora senti come suona. Non ce la faccio più di vivere dentro un sistema dove se non conti i soldi pulisci la tua catena. Lo Stato ci punisce, non ci garantisce niente, più ricco un affarista fascista come ammirante. In fondo mi chiedo chi nel mondo sei più diverso, l'uomo dalla pelle oscura o quello che la chiara, o l'uomo che è sommerso dall'oro che non dichiara. Perché ricco non di soldi ma di una cultura cara, che non si tara con la gara di interessi, che non impari a scuola tra grambilli e crocifissi, sui quali fissi un futuro all'orizzonte, che per me non ha senso come sullo stretto il ponte. Ma il mio lamento non sta dentro il Parlamento, ma vive sopra il cemento con l'aumento dei precari. Mi spavento di un futuro che non sento perché è scuro, che intanto ce lo fa duro più di boss e suoi compari. Non scapperò perché già sono un clandestino, più che siciliano qui mi sento un marocchino. Rischierò la fame e cenerò con un cristino, a costo di restare stecchino come Fassino. In fondo poco e quel poco lo tengo stretto, giusto qualche sogno che è stipato nel cassetto. Ho ancora una famiglia che mi ospita sotto un tetto, e certo è poco ma quel poco lo rispetto, e so che poco però me lo tengo stretto, anche se cammino solo per strada senza un contratto. Mi sveglio la mattina e posso stare sull'asfalto, e certo è poco ma quel poco io l'ho scelto. La verità è complessa e so solo che la mia borsa resta sempre vuota, non incassa banconota. Se non mangio non è dieta, e se divento pelle ossa vuol dire che su sto pianeta avrò solo la fossa. Troppe promesse premesse per l'interesse di chi vuole rubare e diventare uno sceicco, che vuole che io dorma tra i vagoni all'FS o che faccia le scommesse per diventare ricco. E già non metto neanche il piede nella banca, perché tagliato fuori dai lavori sono un X. La gente come me, quella che non la fa mai franca, ridotta sino all'osso il conto rosso più di Max. Non sono un consumista, risparmio ad ogni festa, quale capitalista, la mia casa è messa all'asta. La macchina è guasta e non posso comprare i bulloni, colpirò nella protesta la testa di Berlusconi. In fondo poco e quel poco lo tengo stretto, giusto qualche sogno che è stipato nel cassetto. Ho ancora una famiglia che mi ospita sotto un tetto, e certo è poco ma quel poco lo rispetto, e so che poco però me lo tengo stretto, anche se cammino solo per strada senza un contratto. Mi sveglio la mattina e posso stare sull'asfalto, e certo è poco ma quel poco io l'ho scelto, e so che poco però me lo tengo stretto, giusto qualche sogno che è stipato nel cassetto. Ho ancora una famiglia che mi ospita sotto un tetto, e certo è poco ma quel poco